Bene, siamo in onda? Siamo in onda. Siamo in onda per questa seconda puntata del nostro podcast Microservice Unchained. Ciao a tutti. Ciao. Siamo molto contenti che qualcuno abbia avuto il coraggio di avviare persino il secondo podcast. Sì, siete veramente dei pro. Sì, tutto ciò dell'incredibile. Nella prima puntata vi abbiamo illustrato che cos'è un'architettura microservizi, da cosa è nata, quali esigenze diciamo hanno spinto alla nascita di questa di questo tipo di architettura. Nella puntata di oggi cercheremo di essere più stringati e per presentarvi proprio Epsilon. Sì, perché ci siamo accorti che in molti ci chiedono di che cosa si tratti, insomma c'era un po' di curiosità e volevamo dare una risposta univoca, insomma fare un po' chiarezza. Quindi siamo nell'ambito Cineca, sì, perché Epsilon è un progetto del Cineca, sì. Caro Nicola, ci vuoi dire di cosa si tratta? Sì, è un porting di un ambiente a microservizi che ho fatto sempre open source, che si chiama Anarchia, fatto apposta per il Cineca. Ha cambiato nome perché non è piaciuto ai sistemisti, sostanzialmente. Non è piaciuto ai sistemisti, che solo sentendo la parola anarchia hanno avuto uno sturbo. Sì, no, in realtà si chiama anarchia perché funziona senza un punto centrale, non c'è un potere centrale che controlla anarchia, ma i singoli nodi sanno cavarsela da soli. Mm-hmm. Cosa che non è qui a Cineca, perché qui nella PaaS che abbiamo è basata su Kubernetes, cioè c'è un punto centrale OpenShift che poi è fatto con Kubernetes e Docker. Sì, quindi la nostra PaaS qui a Cineca ha un punto centralizzato di funzionamento, quindi abbiamo dovuto insomma adattare alcune cose e cambiare il nome perché non andava più bene, giustamente. E ho scelto Epsilon perché in matematica di solito indica un numero arbitrariamente piccolo, cioè piccolo a piacere. Questi servizi infatti possono essere piccoli a piacere, proprio perché la definizione di microservizi non ci è mai piaciuta tanto, perché non è tanto il fatto che siano piccoli e come funzionano che li rende molto efficienti. E di cosa è composto questo Epsilon? Che cosa comporta l'utilizzo di Epsilon? Diciamo? Allora, è un ambiente, il che vuol dire che è un luogo in cui le applicazioni che noi scriviamo andranno, gireranno, ok? Quindi lo puoi pensare come una serie di piccoli servizi infrastrutturali, cioè che offrono dei servizi per il microservizio che scriviamo noi utenti finali. Quindi io sviluppatore scrivo un microservizio, lo metto in questo ambiente e so già che c'è in automatico il servizio che si occupa del logging, so già che c'è in automatico un servizio di configurazione, un servizio che gestisce di le configurazioni, sì, della nostra applicazione, un servizio di bilanciamento e così via. Voglio dire, è un ambiente. Quindi sulla PaaS troverete già tutti questi piccoli servizi infrastrutturali funzionanti e su cui voi potete mettere il vostro servizio. Questa sviluppare e deployare. Deployare il nostro. Questa è la prima cosa che è Epsilon, ma è anche altro. Però diciamo questa è una cosa. Nato da sviluppatori per sviluppatori. Ah, cioè, è un bello uno slogan da volantino. Sì, sì, è nato da sviluppatore. In realtà non c'è nulla di nuovo fatto da me, vorrei essere chiaro, perché quei framework dovremmo avere chiuso, framework sì, fatto in basta. Casa. Si tratta semplicemente di un si tratta di un'integrazione sistemistica di diverse applicazioni standard, per esempio Spring Cloud, applicazione di Netflix, insomma tutte le librerie che sono usate nei microservizi, le più usate, le più famose, le più comode, già confezionate in modo da funzionare senza bisogno di metterci le mani. Quindi uno starter kit, non so come dire, cioè qualcosa già pronto da cui partire. Questo è un aspetto di Epsilon. E ti chiedo allora qual è il secondo aspetto? Sì, e anche una serie di buone pratiche di programmazione. Quindi fornisce già dei template anche per sviluppare il servizio. Ha dei template scritti in vari linguaggi per fare un microservizio che è la presentazione, per fare un microservizio che va a scrivere sul database, per fare un microservizio che fa da back-end per un front-end. Mm-hmm. Cioè ti dà anche un codice già pronto, un solito scaffolding per iniziare a lavorare velocemente in questo ambiente. Quindi per farci capire, da questo stupido generatore ti crei il tuo progetto, ci lavori, fai il check-in automatico, per cui il gruppo di sviluppo, senza bisogno del DSEC, mette in automatico il nuovo progetto appena realizzato, lo mette su Git, sul repository che c'è qui in Cineca, GitLab, e viene messo direttamente, viene creato un progetto sul server di integrazione continua. Sì, su Go, che è il nostro server di continuous delivery. GoCD, quello della ThoughtWorks. Sì. E alla fine, quando avremo completato il lavoro, si preoccuperà anche di mettere dei sistemi di controllo, per esempio su Nagios. Per il monitoraggio. Quindi diciamo che lo sviluppatore, invocando questo comando di check-in, butta tutto, prepara già tutto per lavorare e già configura il sistema. Sì, si trova oltre, diciamo, allo scheletro applicativo classico dello scaffolding, anche proprio automatizzate alcune operazioni sistemistiche. Sì, che altrimenti rendevano difficile il lavoro, perché devi sempre chiedere a qualcun altro che ti crei questi servizi. Sì, in questo la PaaS sicuramente aiuta, certo, a raggiungere questa, diciamo, indipendenza. Certo. Così come esistono anche dei piccoli generatori di codice per aiutare nel lavoro di tutto il giorno, insomma. Anche se il mio approccio con i generatori non è che li adoro, diciamo che la filosofia è quella che sono utili fin quando non sono indispensabili, perché se per fare una cosa è necessario utilizzare il generatore di codice e non si può fare a mano, vuol dire che è talmente complicata il design che qualcosa di sbagliato. Cioè, tutto quello che si può fare qui con Epsilon lo devi poter scrivere a mano. Poi ci sono dei task ripetitivi che magari ti è comodo avere lo shortcut. Sì, avere uno shortcut di un generatore che comunque è molto configurabile, potete aggiungere le vostre cose. Ecco, guarda, dici una cosa che mi dà uno spunto. Epsilon sta nascendo, cioè è un progetto che vorremmo portare avanti qui. Sì. Ci abbiamo iniziato a lavorare a luglio, quando sono stato chiamato per farlo. E adesso sta già girando e lo stiamo perfezionando, insomma. E però quello che abbiamo in mente è che venga completato, venga arricchito anche grazie al lavoro di chiunque abbia interesse nel progetto. Sì. Vuoi fare una call for work. Sì, se pensate di essere interessati a questi temi, se pensate di avere un progetto che possa essere inserito all'interno di Epsilon, noi chiaramente siamo qui proprio per fiancheggiarvi e aiutarvi, non soltanto nell'aspetto tecnico, ma anche nella metodologia di lavoro a microservizi, che riguardano un po' di riorganizzazione anche di come è fatto il gruppo in base solitamente alla legge di Conway. Ma insomma, ci sono anche degli aspetti che vanno al di là proprio della codifica, e noi siamo ben disposti a dare una mano, ecco. Direi che, insomma, siamo stati una breve introduzione. Sì. Da qui potrete trovare altra documentazione sulla pagina del progetto Epsilon. Sì. Che trovate su GitLab. C'è il wiki, ci saranno, adesso non ci sono ancora, ma ci saranno a breve dei link a delle slide a tutti i podcast di questa serie. avremo modo di approfondire. Sì, anche personalmente, perché mi sembra più proficuo. Vabbè, vi salutiamo. Ciao, alla prossima.